Benvenuti signori e signori nuovamente a Interferenze. Voi vi chiederete cos'è Interferenze? Non lo so, me lo sto chiedendo a me. Però per darvi una spiegazione abbastanza logica, è esattamente un programma che va di pari passo a Radio Tassello e che serve per intervistare tutti quegli artisti che passano da Spazio Anteprima. Infatti abbiamo con noi i Dual Layer. Ciao, due sfiguz. Benissimo ragazzi, ma cosa ci fate qua allo Spazio Anteprima? Niente, noi si passava di qua, abbiamo visto il posto, abbiamo detto è carino, quasi quasi ci entriamo giusto a fare una suonatina, una prova, qualcosa così. Possiamo restare? No, possiamo... Insomma, non so, dovrei parlare con il nostro presidente. No, il presidente gente non dovrebbe no, entrare dai. In certi posti. Allora cioè, tu devi uscire? Io sono già fuori. Ah ok, sei già fuori di testa. Benissimo ragazzi, è un piacere avervi con voi. Grazie, ciao Dania. Grazie a te. Ciao. Allora, raccontatemi un po' come è nato questa collaborazione fra voi due, chi sono i due alleati? Allora, i Dual Layer sono, è facile la domanda, un progetto acustico nato dall'idea di mettere insieme una voce e una chitarra acustica, né più né meno. In questa formazione da circa 2 anni e mezzo, sì, più sì, o meno, sì, 2 anni. Ok, questa formazione è abbastanza... A novembre, 22 novembre, facciamo 3 anni. Ma vi siete conosciuti proprio in maniera casuale oppure c'è stata una ricerca riguardo a... Ci siamo conosciuti grazie, in realtà grazie a mio padre che ci siamo conosciuti, okay. Perché mio padre suonava in una festa di paese, giusto Marco? Sì, sì, sì. E ha aperto la serata e dopo la sua serata, o prima, non mi ricordo sinceramente, prima c'era il loro gruppo, che Marco suonava in un gruppo che si chiamava Le Ombre. E suonando, niente, mia madre poi si è accorta che erano bravi e tutto, e gli fa il cantante se cercavano una corista, una cantante. Quindi sei figlia d'arte, fondamentalmente. Se si può dire così, sì, boh, non lo so, sì, credo di sì. E mia madre poi si è messa in contatto con loro, alla fine ci siamo messi in contatto noi, ci siamo conosciuti, abbiamo fatto la prima prova e siamo andati avanti, non ci siamo più fermati. Che tipo di generi trattate voi fondamentalmente? Cioè io ho visto che suonate tipo hard rock, rock heavy metal, punk, non thrash. So cosa hai sentito, ma non siamo noi. Scusatemi ragazzi, c'è stato un problema di logistica. Comunque no, a parte gli scherzi. Ma guarda, sul genere stiamo litigando ancora adesso apertamente. Infatti non potete vederci perché siete in radio, ma lei c'ha un occhio nero, io c'ho un graffio sulla guancia perché mi ha menato prima. No. A parte questo, cerchiamo di usare dei generi diversi per poi riconvertirli in acustico e cercare di trarne qualcosa di interessante da comunicare con le persone che sono gli utenti finali. Se posso intervenire anch'io, facciamo praticamente un po' di tutto, cioè quello che ci piace, quello che prendiamo come sfida anche personale, in maniera proprio strumentalmente, musicalmente, la prendiamo come sfida, magari non ci piace neanche, però la facciamo lo stesso, magari ci viene bene e la proponiamo, abbiamo un set di canzoni molto vasto, abbastanza eterogeneo, facciamo da Mina ai Led Zeppelin per dire. In effetti è proprio vero, perché avendo visto e ascoltato spesso i vostri concerti, passate effettivamente da dei pezzi magari di gruppi, come diceva giustamente Dania, Led Zeppelin, fino ad arrivare a, eccolo, fino ad arrivare comunque a canzoni italiane. Magari anche tipo, aspetta, ce n'è una, aspetta, com'è che faceva? Aspetta. Quella di Noemi. Brutto bastardo, baby, brutto bastardo, cosa vuoi da me? Gira alla larga, cuore di pietra, amore, cuore di pietra, pensi solo a te. Vattene via, portati dietro i tuoi occhi di vetro fumé. Viaggia lontano, verso un mondo lontano da me. Questo è un piccolo intro. Bellissima, bellissima. In realtà questa canzone qua la potrei dedicare anche a varie persone. Però vabbè, lasciamo. Sì, in realtà io la canto dedicandola a una persona precisa. Che poi, proprio, giustamente, ma tutte le canzoni hanno dietro delle emozioni. Io penso che se voi vi dedicate a un certo tipo di scalette, perché comunque quelle canzoni per voi magari potrebbero essere anche importanti, giusto? Ma di solito cerchiamo. È chiaro che nel momento in cui scegliamo dei brani che dobbiamo rappresentare, prima di tutto ci devono piacere, E questo piacere sicuramente passa per una linea emotiva. Chiaramente se ci dicono qualcosa, se comunque li possiamo associare a delle emozioni che abbiamo vissuto, diventa anche più facile lavorarci su, giocarci, sporcarci le mani un po' con i bambini con la tempera, no? Per cui poi il risultato diventa anche autentico e il pubblico lo il pubblico lo percepisce più velocemente. Sì, diventiamo più espressivi, no? Esattamente. Ma chi dei due è più pignolo? Pignolo, bella sfida. Bella sfida, bella perché sfida. Io no, sembro lei, magari... sicuramente lei. Allora, c'è da dire, però aspetta, perché sennò sembra... Cioè, Marco è molto preciso, eh? Però io... sono d'accordo, no, ci sta dalla regia. Però diciamo che io sono molto esigente nella musica e finché non è nel cavillo, come dico io, perfetta, che ci amalgamiamo perfettamente, non si può esporre. Comunque è sicuramente un aspetto positivo l'essere pignoli, proprio perché poi ti porta a esibirti davanti alla gente ad un certo livello. Sì, lo fossi così nella vita, ma non lo so. adesso non esagerare, capito? Cioè non è che si può avere tutto. Ma siete avere un cognato così, infatti. C'è una canzone a cui siete più legati? Beh, che bella domanda questa. Beh, di brani a cui sono legato, me ne viene in mente uno che è nato proprio. Vediamo se è uguale. Scommessa Aerials di Sistema Down. Ah, wow, sì. Aerials di Sistema Down è stata una scommessa perché è un brano che se lo senti dici, ok, molto carino, interessante. Classico delle sonorità di Sistema Down, cioè molto metal, molto pesante, molto elettrico e tutto. E l'episodio divertente è che l'ho proposto a Dani, a risposta automatica, ma te lo puoi scordare, ma te lo sogni, e che ho detto che okay, allora funzionerà sicuramente. Perfetto, lo proviamo, ci abbiamo lavorato un mese e mezzo più o meno e con l'aiuto di Simone Losa, però con l'aiuto di Simone Losa che ci ha dato una manona non indifferente, perché non è facile come canzone mano. In realtà poi bisogna specificare una cosa, i due layer non sono solo in due, noi siamo terminale di tutto un insieme di attività che sta sotto la punta dell'iceberg. In realtà ci sono un sacco di persone che ci danno costantemente una mano e che ci sono vicino con i loro consigli, con il loro supporto logistico, con i loro aiuti, che ci mettono sviolinata e non c'è violino, c'è la chitarra. No, scherzo. No, quella canzone lì è stata veramente una sfida anche per me, però ho detto vabbè, dai, apriamo le danze, apriamo le sfide. Però ce n'è una che secondo me ci accomuna, o forse anche due, a cui siamo veramente legati e sono dei cavalli di battaglia. Una è una canzone con il quale proprio abbiamo iniziato. Io ho fatto questa canzone alla prima prova, a lui è piaciuta e abbiamo dato il via al progetto, che è Almost Lover degli A Fine Frenzy. Beh, io ragazzi direi, sentiamola. Your fingertips across my skin, the palm trees swaying in the wind, in my chains. You send me Spanish lullabies, see the sundress in your eyes, clever trick. Porca miseria. Piccolo assaggino. Cioè, ragazzi, cioè, se voi mi poteste vedere adesso, cioè, con i peli che ho sul braccio, sembra un gatto. Cioè, un gatto con i peli dritti. Ma perché io non lo so, cioè, bellissimo, io quando canto non so cosa. Cioè, tu quando canti, ti ascolti? No, mi ascolto, però non so. Prossimo, siete molto bravi. Io non so se sono brava, però canto e quello che viene fuori spero che piaccia. Guarda, poi ti dico, qua allo spazio. Piace molto questa canzone. Allo spazio girano un sacco di artisti. Voi siete un gruppo che spesso è qua. E se siete qua spesso è perché siete bravi. Guarda, nel nostro legame con Spazio poi comunque è un legame estremamente profondo. L'ultima occasione nel quale abbiamo avuto occasione di esibirci qua a Spazio è stato nel set degli Acoustic Night. E è stata una bella occasione per imparare per noi, perché ci siamo confrontati con i D-Twice, che sono un altro duo acustico. Lì è stata, anche quella è stata un'idea partorita dalla mente eccellente di Simone Losa, che ha scommesso su una serata nel quale... Scusami Marco, ti interrompo su... Simone, te la vedi l'area, adesso però. Però il presidente è il presidente, bisogna un attimo fare le chinaggia, sennò poi ci caccia. Quello è stato il live più bello che abbiamo mai fatto in 2 anni. Abbiamo fatto per la prima volta una jam session, sì, con un altro duo acustico, altro che era tra l'altro la prima volta che suonava. Ci terrei a dire che non ciao Simo, non vengo pagato. E io non pago nessuno per dire queste cose. No, allora finisci di compilare l'assegno, Dania, grazie, e poi glielo facciamo avere. Perché costiamo cari comunque. Dicono tutti così. Poi per finire volevo solamente dire che c'è un'altra canzone che è Sacrifice di Anouk e basta, tutto qua. Che quello è un cavallo che mettiamo sempre nelle riempipista, quello che dovrebbe essere. Sì, quella la possiamo fare in qualsiasi versione, anche improvvisata, che tanto ci viene lo stesso. Ma sai cosa fare, quella, giusto per... Possiamo improvvisare. Regà, e che ve lo dico a fare? Ah, vuoi? Va bene. Who does the world that made you happy? And who does the role that always makes you laugh? Who does the reason you were smiling? And drink it through this time so wrong? Porca miseria, zii. Dai, smetti, troppo buona. Grazie. Dai, poi iniziamo a tirarcela. Noi iniziamo a crederci sul serio dopo. Ci credo davvero. Siete davvero bravi. Benissimo, adesso è arrivato il momento che tutti aspettano. Wow. Quello delle domande pazze. Oddio, sto iniziando a tremare. Okay, poi è possibile. Quindi state pronti, perché le domande che vi farò sono di carattere generico. Quindi non parleremo solamente di musica, ma parleremo un po' di tutto. Quindi parto con la prima. Attenzione, mi dovete rispondere tutti. Ma tipo insieme dobbiamo rispondere? No, cioè chiaramente prima uno, poi l'altro, oppure ci alterniamo. Ma tolto la parola di bocca. Forse devo fare io la speaker al posto suo. In che modo? Attenzione. Ok, se è difficile rispondere lei, non ti preoccupare. Se volete abbiamo 50-50. Ah, pure da casa. Da casa, bella. Ok. In che modo è arrivata Puffetta nel villaggio dei Puffi? Per un sortilegio di Gargamella. Bravissimo, mamma, bravissimo. Applauso. No, io avrei risposto così, perché ci voleva una ragazza per farsi tutti almeno. Questa sarebbe stata la seconda domanda. Però non possono mica essere tutti gay, come golosone lì. Infatti la domanda dopo sarebbe stata: ma in un villaggio di puffi Puffetta che lavoro? È la puffa troia. Benissimo, la seconda domanda, questa è un po' più difficile forse per intenditori. Intenditori, allora qua va bene, allora fluire. Per favore, allora parliamo, alziamo il livello, per favore. Allora. Parla con fluire. Allora, chi era? Ipotago. Ambogio, per favore, la teoria, non metterla lì, dai. Dai. Questi camerieti. Allora, chi era il protagonista dell'Uomo Tigre? Urca, l'uomo tigre. Qua andiamo su. Scusa. Qua andiamo sul difficile. Il nome. In realtà l'uomo tigre era John. No. Sì, John Fitzgerald Kennedy. Non lo sapevo. Vi do una mano. La Pumarola, da dove arriva? Pumarola. Da dove arriva la Pumarola? A Napoli. Bene. Allora, quello si chiama Antonio. Come fa la provincia di Napoli? Naoto. Bravo! Mamma. Cognome? Se io c'ho una cosa e te la do. Se io te la c'ho una cosa e te la do. La dai. E già diamo il giro. Se io ho una cosa e te la do. Lo dai. La ricevi. La ricevi. Beh, il codice fiscale adesso è stato un cinema quello. C'è un documento. È mia. Se me la dai, mia. Naoto mio, ho capito. Se tu me lo dai, è mio. Era Naoto Date. Che poi si legge. Che poi la dava in giro. In giapponese come si dice? No, to date. La terza domanda, questa è una riflessione a cui mi accingerei proprio in silenzio. Sottofondo idoneo. Vediamo. Ma la sala parto non dovrebbe chiamarsi sala arrivo? Allora io ti rispondo con un'altra. Se la prima è vera, allora l'estate è falsa. Minchia, c'hai ragione, oh, c'hai ragione, c'hai ragione. Ma se l'aria, cioè l'aria è fredda perché sta fuori tutta la notte, mi è venuta male. Cioè, scusami, scusami, ma allora io ti potrei anche chiedere, ma quanti sono gli eschimesi? Eschimo tanti, non so. Eschi gennaio, eschi febbraio. Eschimesi. Eschi marzo. Ah, c'ha ragione. Benissimo, passiamo alla prossima domanda. Eschimo tanti. Questo è per voi, mi raccomando. Questo è per voi. Allora, se vi doveste identificare in un duetto, quale di questi preferireste essere? Premetto che non li conosco. Ve li dico. No, conosco duetti, io conosco solo il nostro e basta. Allora, attenti, So Rock. Paola e Chiara. Spero di no. Little Tony e Bobby Soul. Bello, sì, però, ci sta, Ma io chi faccio io? Quello è diventa Little un problema. Tony. Posso fare Little Tony? Mi piaceva un sacco. Prova cuore matto. Aspetta. Il cuore matto, matto da legare. Andate. Teo Teocoli e Tony Dallara. Vabbè, signor duetto, mica. E poi secondo me chi dal fuori onda sottovoce che nessuno ha sentito. Questa è la perla, Cochi e Renato. Bellissimo duetto. Anzi, e la vita, la vita, e la vita le bella, le bella. Basta avere l'ombrella, l'ombrella. La sappiamo comunque. L'ultima domanda, ragazzi, importante perché qui si basa la vostra qualità artistica. Siamo semplicemente fottuti, okay, comunque. Se volete mettere sulle cuffie, ok? Sì. Pronto? Okay, ci siamo? Dai. Okay. Mica deve essere operata, cazzo, che sembra la cosa della fine. Okay. Improvvisate una canzone. Ok. Tra. Attenti. Questa non la lascio. O solo il mio. No. La bella lavanderina. Aia. Yeah. Oh mia bella Madonnina, No, si può anche fare. La brum del capo, a un buco nella gomma. La brum del capo, a un buco nella gomma. La brum del capo, a un buco nella gomma. E noi lo aggiusteremo con il cewing. Mamma, dai, l'ultima si poteva fare, dai. Beh, l'abbiamo fatto solo per te perché sappiamo quanto sei cartone animato. Ma c'è un momento particolare nella vostra storia a cui siete più legati e che vi ha dato più soddisfazioni? Rispondo io. Beh, a livello emotivo sicuramente è stato un passaggio in radio, su Lifegate Radio, che abbiamo avuto grazie a Life in Blues, che è un programma curato, diretto, condotto da Puma di Gambrate, che è Fabio Treves, che prima di essere un armonicista eccellente è una persona umanamente fantastica, che mi ha insegnato che cosa voglia dire non essere un divo, non serve a niente. Una persona estremamente disponibile che ci ha dato l'opportunità di essere visibili su un canale così importante, in un programma con altri gruppi emergenti, diciamo, come noi. Quella è stata motivata molto bella. Ed è andata in onda, in diretta, se stasera sono qui in Chiave Blues, diciamo. Comunque è una bella soddisfazione perché, insomma... È stata un'emozione incredibile. Non capita a tutti un'opportunità del genere. No. È stata un'emozione veramente fantastica. Vi trovate meglio? A schiacciare i pomodori oppure le olive? No. Ma io direi perché le olive hanno i noccioli, io non so te, Marco. Le olive avendo i noccioli fanno un po' male, preferisco mangiarle, però i pomodori, visto che sono un po' acidi, no? Allora preferisco schiacciarli. Poi anche proprio in realtà la domanda è con la natura. Vi trovate meglio a fare dei live o a registrare in studio? Allora, all'inizio registravamo, abbiamo iniziato a registrare in una sala prova proprio fatta da noi, diciamo, quindi lo chiamavamo il nostro bunker. E lì avevamo proprio la nostra strumentazione per registrare e mi piaceva tantissimo, devo dire la verità. Mi manca un po' non registrare, però mi ripeti la domanda? Allora, se volete rileggere la domanda andate sulla pagina. I live sono un'altra cosa. I live è il risultato di un lavoro programmato e comunque studiato ed è quello che noi praticamente vogliamo trasmettere. Però è nell'immediato, quindi non puoi fermarti, decidere, preparare. No, live è proprio impatto. Il live è l'impatto, cioè quello che praticamente esce al momento, studiato e improvvisato. Sorta di autoregolamentazione che ci siamo dati, oltre ad aver avuto l'opportunità di suonare in questo posto per diverso tempo. Poi comunque anche spazio ci dà una mano, in questo senso, nel provare, nel dedicarci comunque uno spazio nel quale possiamo provare, e di aver fondato, diciamo, inventato da noi una cosa che si chiama laboratorio. Noi prendiamo un brano non per quello che è in sé, ma per l'idea che ci esprime o per le cose che ci solletica a livello di idee, lo prendiamo, lo smontiamo in un certo senso, ci lavoriamo sopra un po' come dei meccanici o come allegri chirurghi un po' pazzi, lo rimettiamo insieme, cerchiamo di trovare alcune soluzioni interessanti. Finita quella fase di laboratorio abbastanza anche artigianale, molto empirico, poi viene fuori il risultato della canzone. Esatto, viene fuori una certa, un certo di media di... scusa se interrompo, di media sono, noi prendiamo una canzone, la abbozziamo, e se ci viene bene in 3 prove, allora è nostra. Vuol dire che si tiene. Allora vuol dire che fa per noi, se no non la teniamo. Questo è il nostro cioè la nostra registrazione, diciamo. Ovvio, poi senza la reazione del pubblico non puoi sapere se va bene. Chiaro che quella è l'ultima frontiera. Puoi capirlo solo. È come se fosse un controllo qualità. Esattamente, il miglior controllo qualità lo fa il nostro pubblico. Ragazzi, progetti per il futuro? Progetti per il futuro sicuramente registrare dei brani che abbiamo già scelto, che faranno parte di un micro demo, e poi iniziare a scrivere qualcosa di nostro, sicuramente sia come testo che come armonia, diciamo. Okay. Anche se su quello c'è un bel ragionamento, c'è molto da fare. Allora ragazzi, io vi ringrazio, diamo prima i vostri contatti. Allora, i nostri contatti, abbiamo una mail che è duallayer, sito duallayer con la y 08@libero.it, che è la nostra mail. Siamo presenti in Facebook, ci trovate sotto Dual Liar, il nostro logo è abbastanza riconoscibile perché è nero come la notte. Ed è molto molto strano, tanto che siamo molto criticati, quindi è riconoscibilissimo. Venga, mi sta facendo già paura. Poi vedo che ti stai toccando anche le parti basse. Non si sa mai di questi tempi. Non vi preoccupate, non mi sta toccando. Il suo riferimento, vabbè, Marco Furini, ovviamente, il grande Marco Furini, mio maestro, e io la pecorella Dani Casabò. In ragazzi, arte, Dania in arte Dani Casabò. Noi ti ringraziamo. È stato davvero un piacere avervi qua con noi. Sicuramente nostro. Ci saranno altre occasioni per sparare cazzate. Cioè, no, io non penso. Penso che questa sia la mia prima e l'unica volta, perché non ti voglio più vedere. Oh, bella! Grazie a tutti, io vi saluto. Ciao Marco, ciao Dania. Ciao Lele. Io sono Lele e questa era Interferenze. Radio Tassello.